perché chi è lì è proprio ligato spesso, ecco, molto significativamente, che conta molto dal punto di vista così dell'impatto, e sì, anche perché il mondo attorno di attore e figure, vedendolo così, sicuramente ha reagito con una naturale dimensione di rifiuto, di empatia, di pietà, eccetera. Com'è stata la reazione della platea internazionale a Berlino? È stata molto calda, forte. Alla proiezione ufficiale ci sono stati quasi 15 minuti di applausi, quindi, ma al di là dei minutaggi che sembrano sempre un po' pesare le cose, la sensazione generale respirata e il rimando avuto anche nei giorni successivi, anche il giorno della premiazione, eccetera, sono stati tutti molto caldi, positivi, cioè una dimensione di insomma di apprezzamento per il senso di verità anche che si trasferisce, pur essendo raccontato in parte anche un po' come una favola. Giorgio, in quante sale? Guarda, questo non lo so ancora, perché siamo in una condizione in cui, essendo parte dell'Italia con le sale chiuse, essendoci poco, diciamo, ci sono i film che sono stati ritirati, eccetera, non ti so ancora dare un dato da quel punto di vista lì, perché stanno ancora aggiustando ancora oggi la dimensione del dove, come, quanto, eccetera, rispetto all'uscita di domani. Volevo nascondermi al cinema da mercoledì 4 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giorgio Diritti. Giorgio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ancora complimenti e a presto. Grazie a tutti, un abbraccio e abbiate fiducia, come dire, comunque che la vita trova forza e ci dà la possibilità di esprimerci. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Sola al mio matrimonio di Marta Bergman al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Paolo, ben trovato. Ben trovati, ben trovato a te, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci presenti questo film? Sì, intanto sottolineo che si tratta di una regista, e questo sta succedendo tanto spesso nel nostro listino. Cineclub Internazionale Distribuzione è molto attenta al cinema, al femminile, sia come protagonisti che come registe. Marta Bergman è una regista rumena emigrata in Belgio, quindi cinematograficamente si è formata in Belgio, ed ha una formazione documentaristica, ma che si è cimentata in questo caso per la prima volta in una storia di finzione inventata, seppure basata su studi reali, osservazioni reali sulla società in Romania e sulla società di emigranti in Belgio, che adesso sono emigranti comunitari. E da questi studi lei ha tratto fuori però una storia che ha dei tocchi anche di fantasia, oltre all'invenzione narrativa, ha proprio anche dei tocchi di fantasia, di sogno. Ecco, quindi ha in qualche modo lasciato il linguaggio documentaristico per raccontare una storia veramente da romanzo. E la protagonista è Pamela, una giovane rom che sta nel suo villaggio in Romania, alle porte di Bucarest, ma che soffre non solo perché è una donna che ha delle discriminazioni in quanto donna, ma anche in generale in quanto gruppo povero e quindi appartenente ad una classe sociale molto molto bassa, probabilmente la più bassa della scala sociale, almeno in Romania, ma credo che questo succeda anche in altri paesi. E quello che spinge poi Pamela a intraprendere un viaggio e una ricerca di una libertà, di un'emancipazione che siano basate su alcuni elementi fondamentali come l'istruzione, come la conoscenza del mondo, come la voglia di avere comunque un partner, avendo già una figlia piccola, ecco, questo è quello che muove Pamela e muove il film anche narrativamente, perché il film si muove narrativamente quasi come un on the road, proprio seguendo la volontà di Pamela di essere più libera, di conoscere il mondo e di emanciparsi non solo dalla sua realtà, perché anche all'interno del popolo rom ci sono realtà tradizionalmente maschiliste, ma ci sono anche realtà molto più libere. Non posso non ricordare o oggi che la notizia recente della nomina a commendatore di Santino Spinelli in Italia, del primo Rom a ricevere questa onorificenza dal Presidente della Repubblica. Ecco, quindi i Rom non sono quel 10% che vive nei campi, sono un popolo che ha una tradizione, una storia. E quindi all'interno di questo popolo, come all'interno del popolo italiano e di altri popoli, ci sono le caste tradizionali e maschiliste, oltre che ci sono anche le caste di povertà, come ci sono quelli che invece sono andati avanti, hanno fatto carriera, hanno la loro cultura, le loro tradizioni nel senso però più alto del termine, eccetera, eccetera. Ecco, quindi Pamela vuole arrivare a quel livello e quindi vuole emanciparsi, come farebbe qualsiasi donna e qualsiasi persona, immagino, nella sua situazione. Però deve sfidare tanti tabù, compresi quelli che anche in società diverse ci sarebbero, perché comunque una donna con una bambina senza marito non è un tabù del tutto superato dovunque. E la cosa interessante è che poi nella società belga vediamo anche il politicamente corretto, che però di fronte alla concretezza dei fatti, alla concreta vivacità di Pamela, è un po' in difficoltà, pur cercando di essere dalla, tra virgolette, parte giusta, però è un po' in difficoltà. Ecco, in questo la forza dell'attrice Alina Sherban, che è un'attrice rumena e rom, ma è anche una scrittrice teatrale. Lei fa parte della nuova onda di autori teatrali rumeni e sappiamo che anche il cinema in Romania si fonda molto sulla scrittura, e quindi anche questo Alina porta con sé. E poi c'è un grande attore belga che le fa da coprotagonista o da antagonista, per dirlo in termini tecnici drammaturgici, che è Tom Vermeer, che anche lui, forse qualcuno lo ricorda in Belgica, ma è veramente un grandissimo attore. E poi c'è la nonna di Pamela, che è una cantante rom conosciuta in Romania, noi la conosciamo meno, ma comunque è anch'essa in un ruolo importante, seppure in scena più nella prima parte del film, comunque arricchisce l'elemento tecnico-artistico del film. Questo film è stato selezionato a Cannes dalla CID. La CID è un'associazione di autori indipendenti di vari paesi, ma che ha sede in Francia, e in Francia anche delle sale cinematografiche, e quindi Cannes, nella sua sezione a CID, ha presentato questo film. Che poi è stato anche a Roma, al Festival Cinema Indipendente, dove ha vinto una menzione speciale e ha vinto anche il premio per la migliore attrice protagonista, appunto, Alina Sherban. E quello che è interessante è anche questa narrazione è molto avvincente, perché noi seguiamo, ci medesimiamo in Pamela, pur probabilmente non avendo nulla in comune con lei, salvo eccezioni, insomma, nella maggior parte dei casi il pubblico non ha nulla in comune con lei, ma poi sente tutto in comune con lei. E anche l'empatia della bambina, naturalmente, una piccola bambina attira la simpatia di qualsiasi spettatore, però anche l'avventurosità del viaggio, la sorprendente scelta di ogni svolta narrativa, questo attira e tiene desta l'attenzione dello spettatore come appunto un romanzo. Da questo punto di vista c'è una classicità nell'essere narrazione da romanzo, ecco, però c'è anche delle sue modernità cinematografiche, perché Marta Bergman comunque appunto fa parte di quelle registe dell'area del centro-est Europa che oggi stanno prendendo la scena in tutti i festival, direi meritatamente. Paolo, in quante sale? Ma ecco, siamo in un periodo difficile, perché le tre regioni con più forza economica anche nel cinema, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno le sale chiuse, e quindi in quelle sale ovviamente non si può uscire. E perciò il fatto che riusciremo a uscire quasi in 15 sale in tutte le altre regioni, comprese le regioni più meridionali, questo secondo me è un ottimo segnale di reazione a cui noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo film era fissato per il 5 marzo e resta il 5 marzo. Abbiamo pensato di non spostarci perché non ci sembrava corretto, e comunque va mantenuta una linea di resistenza, contando poi di uscire anche nelle altre regioni nel momento in cui si riaprissero le sale, cosa che auspichiamo avvenga al più presto, perché credo che la forza della cultura e della socialità della cultura sia comunque da mantenere. Non credo che ci sia un bene della salute in astratto, deve essere concreto, deve essere vissuto comunque con socialità. Tutta la prudenza, per carità, assolutamente, non stiamo mica raccomandando l'imprudenza, però difendiamo la socialità, perché quella ci resterà dopo. I virus comunque passano, ma la socialità non possiamo perderla, e quindi sono contento di quest'uscita, che è comunque importante nella situazione data. vada a vederlo con curiosità e possa apprezzarlo, cosa di cui io sono convinto, ma aspettiamo il riscontro del pubblico stesso. Sola al mio matrimonio di Marta Bergman al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, viva il lupo e buona visione. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film, che distribuisce They Shall Not Grow Old, Per Sempre Giovani, di Peter Jackson, al cinema da lunedì 2 marzo 2020. Francesco, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, ciao Federico. Che lavoro è questo? È un lavoro unico ed epocale in quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, con tutti filmati d'archivio che sono stati restaurati e quindi messi a colori, e si è creata una storia che è parecchio intrigante. Come era nato questo progetto? È nato fondamentalmente grazie alla memoria del nonno del regista Peter Jackson, che ricordiamo il regista del Signore degli Anelli, per cui ha sempre vissuto col desiderio di poter fare un'opera che potesse ricordare e mostrare il dramma della Prima Guerra Mondiale, che ricordiamo è stata una guerra drammatica e dolorosissima. C'era gente che viveva nelle trincee, dormiva 3-4 ore al giorno, ma soprattutto erano ragazzi mandati allo sbaraglio, 15-20 anni, 30 anni, senza alcuna formazione militare, che venivano mandati proprio completamente allo sbaraglio. Quindi come nasce? Nasce grazie alla Warner, che si è trovata in difficoltà nel distribuirlo, poiché il regista stesso voleva che il film venisse totalmente sottotitolato e andasse in determinate sale di qualità, quindi d'effetto. E abbiamo, come dire, sudorato la possibilità di prenderlo e poterlo distribuire noi. Abbiamo iniziato una trattativa che è durata all'incirca un anno e alla fine ci hanno accontentato e stiamo intraprendendo questa avventura. Che tu sappia, da quanti archivi è stato preso il materiale? Da quello che so è sicuramente stato preso tutto il materiale dall'archivio del Museo Inglese sulla Prima Guerra Mondiale, quindi credo sia un unico archivio nel quale lui ha lavorato per circa un anno, ricercando quante più immagini possibili per poterle assemblare, per poterle ricolorare e per poter lavorare pure sull'audio. Tanto è che anche l'audio si è cercato di dare realtà agli stessi dialoghi che comparivano nei filmati dell'epoca. Quindi c'è stato pure anche un lavoro sul labiale delle varie persone, dei vari soldati, per cercare di rendere quanto più possibile reale appunto l'opera. Che quadro viene fuori da questo assemblaggio? Come dicevo prima, un documentario secondo me epocale ed unico nel suo genere, poiché è quanto di più possibile si possa vedere ora grazie a filmati di 100 anni fa, e viene fuori assolutamente un quadro drammatico e unico, perché come dicevo ci si rende conto che spesso i soldati erano totalmente impreparati, non sapevano a quello che andavano incontro, non si rendevano conto neppure della realtà che stavano vivendo e soprattutto di che nemico stessero combattendo. Infatti mi dispiace dirlo, rivelarlo, alla fine ci si rende conto che anche i tedeschi contro i quali combattevano alla fine non sapevano che in realtà stavano vivendo, e spesso diventavano amici perché erano nella stessa barca e buttati allo sbaraglio. Quindi è un quadro assolutamente drammatico che nessuno si sarebbe mai immaginato. Che tipo di circuitazione ha avuto all'estero? Allora, so che doveva essere candidato agli Oscar, poi non so per quali motivi è stato scartato. In America è andato assolutamente bene, ma anche e soprattutto nel resto del mondo, ma grazie al lavoro che è stato fatto, alla comunicazione, anche al regista stesso, che ricordiamo è stato premiato con un Oscar grazie al Signore degli Anelli. Quindi in tutto il resto del mondo è andato abbastanza bene, ci auguriamo che vada pure bene in Italia, insomma, perché il problema è quanto sta succedendo con l'allarme, che ci sono pure dei cinema chiusi, quindi speriamo di poter raggiungere almeno metà del risultato ottenuto nel resto del mondo. In quante sale al momento? Allora, al momento siamo in circa una 30 di sale. Ovviamente ciò è un problema perché, come dicevo poco fa, c'è pure l'allarme del coronavirus, che come sappiamo ha permesso che alcuni cinema chiudessero, e ciò stiamo facendo il lavoro credo migliore per quanto ci riguarda. Ci stiamo cercando di raggiungere più sale possibili, però è molto molto difficile. La mia speranza è di riuscire a raggiungere per settimana prossima almeno le 50 sale e poi fare un lavoro ramificato con tutte le scuole per portare appunto a vedere per quanto più possibile ragazzi al cinema, il film. Per saperne di più a questo proposito, anche rispetto alle scuole, ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, certo, assolutamente. Ovviamente la nostra pagina Mescalito, basta scriverci e poi cerchiamo di rispondere nell'arco di un'ora. Altrimenti vi invito a vedere il sito mescalitofilm.com, dove trovate le due mail utili, che sono la mia e quella generale della società, che è mescalitofilm@gmail.com. They Shall Not Grow Old, per sempre giovani, di Peter Jackson, al cinema da lunedì 2 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film, che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Francesco. Freddy, un abbraccio a te e un saluto a tutti voi. Grazie Federico, ciao. Con Simone Manetti, regista del film Sono innamorato di Pippa Bacca, al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Simone, ben trovato. Buongiorno. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Ma presenterei il film come un tentativo di evitare che la memoria si dissolva. Questo è un film che parte da uno spunto tragico, purtroppo, che poi è quello che la maggior parte delle persone si ricordano o conoscono, ovvero l'uccisione di una donna vestita da sposa poco fuori Istanbul. Mi ricordo nel 2008 quando questa notizia irruppe nei telegiornali, fu insomma deflagrante, perché anche visivamente era un'immagine molto potente oltre che triste. In realtà il documentario parte da quello spunto, cerca quasi di dimenticarselo per quanto è possibile, cerca di raccontare tutto quello che c'è stato prima e tutto quello che c'era alla base e quelle che erano le motivazioni che portarono questa donna a essere appunto vestita da sposa ai confini di Istanbul. Pippa Bacca era una giovane artista milanese che insieme a una sua collega artista Silvia Moro decide di intraprendere un viaggio performance che l'avrebbe portato ad attraversare 11 paesi al tempo recentemente afflitti da guerre, e di farlo vestita da sposa per simboleggiare il matrimonio tra le genti e di utilizzare come mezzo di spostamento e di motore della performance l'autostop, una pratica che ti mette a stretto contatto con il prossimo. La base di questa performance, che in realtà era molto stratificata e complessa, però diciamo il nucleo era quello che affidandosi al prossimo si riceve solo del bene, che il matrimonio tra le genti è possibile. Questo era il punto di partenza della performance Bryson Tour che appunto Silvia Moro e Pippa Bacca realizzeranno nel 2008. Come hai deciso di realizzarne un film di questa vicenda? Qualche anno fa ormai il coautore del film, Gianluca Perilli, mi ricordò questa storia e mi disse appunto che secondo lui sarebbe stato molto interessante cercare di raccontarla. Io mi sono chiaramente avvicinato alla storia studiandola meglio, cercando di abbandonare il ricordo del 2008, e ho capito che la forma secondo me più adatta era proprio quella del film documentario, in modo da restare il più aderente possibile a quello che era il sentimento che portò Pippa a intraprendere questa avventura. La trovo una storia molto potente oltre che struggente, perché l'idea di base di Pippa era, come si può dire, deflagrante, un'idea molto semplice, tra virgolette, quella della pace, partire da un concetto molto, molto piccolo, che però in realtà è un concetto enorme, è anche il tentativo che loro hanno fatto, ovvero quello di quasi prendere la pace, che è un concetto astratto, cercare di scatolarlo fisicamente in un qualcosa per caricarselo sulle spalle e portarlo al prossimo. Secondo me dava lo spunto a una possibile narrazione e a delle riflessioni successive. Conoscere, lavorare su questa vicenda, che ti ha suscitato? Che emozioni, che pensieri? È una storia che ti mette in discussione, perché quello che successe anche poi insomma all'epoca nei media, la prima reazione è quella di prendere una certa forma di distanza. Al tempo molti dissero vabbè, se l'è cercata, perché la situazione in cui successe tutto fu particolare. Approcciandosi a questa storia si capisce che spesso, e in relazione a questa storia, ma anche in senso più generale, quando uno appunto pronuncia una frase come "se l'è cercata", tante volte è quasi una forma di autodifesa che ti allontana, no? dal male, perché diventa una cosa lontana da te. Accettare il fatto che Pippa Pacca non se l'è cercata, ma che c'è qualcosa di più profondamente sbagliato nella società moderna, per cui non si può neanche portare la pace simbolicamente, ti spinge a doverti mettere un po' in discussione e a realizzare e accettare il fatto che ci sia qualcosa di sbagliato. Che percorso, che tipo di uscita sarà? Il film è stato presentato al Torino Film Festival e da ora in poi il suo percorso sarà quello di una distribuzione nelle sale cinematografiche da parte di Wanted Cinema, che è il nostro distributore italiano. Sarà una distribuzione, ora cambierà un attimino con gli ultimi fatti coronavirus in Italia, quindi sarà un po' più spezzettata, però l'idea è quella di far uscire il film in sala in maniera abbastanza tradizionale, tenendolo nelle maggiori città italiane almeno per una settimana, e poi continuare il suo percorso con tutta una serie di proiezioni evento, sia ad altri festival, sia a cinema di sé. Oltretutto siamo stati inseriti, grazie alla FICE, che è la Federazione Italiana Cinema di Sé, nel loro elenco di film documentari da vedere, e quindi molto probabilmente andremo anche in diverse città e in diverse sale di Sé in tutta Italia. A questo proposito, c'è uno spazio web dedicato al documentario? Fondamentalmente Facebook, la pagina di Wanted Cinema. A breve poi realizzeremo una pagina dedicata solamente al film, dove uno potrà, oltre che al film, insomma, trovare anche tutti i materiali riguardanti Pippa Bacca e Brazen Tour. Sono innamorato di Pippa Bacca. Al cinema da giovedì 5 marzo 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Simone Manetti. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a voi, a presto, grazie mille. Con Davide Maldi, regista del film L'Apprendistato, al cinema con Movie Day da sabato 7 marzo 2020. Davide, ben trovato. Ben trovato, grazie dell'invito, sono felice di risentirti. Era qualche anno che non ci sentivamo, abbiamo seguito alcuni tuoi lavori. Come presenteresti questo apprendistato? È come appunto un secondo capitolo di una trilogia sull'adolescenza, iniziata con il lavoro precedente che si chiamava Frastuono e che prosegue con questo, nel quale si racconta la formazione di un giovane cameriere che deve sottostare alle leggi del lavoro all'età di 14 anni. Come nasce tutto? Nasce dall'idea e l'esigenza di cercare nel contemporaneo una situazione dove un adolescente era portato a imparare un lavoro da subito, e quindi mi sono messo un po' sia a leggere più che altro e a ricercare nella realtà un contesto dove questo era percepibile. Avevo letto una istruzione alla servitù, che è un manuale di consigli utili rivolto ai giovani servi di metà del Settecento, dove gli venivano dati consigli per sopravvivere presso la casa del padrone. Ho cercato di tradurre questa cosa nel presente. Sono andato alla ricerca di un collegio alberghiero che avesse un forte legame col passato, e di un ragazzo che difficilmente aveva la propensione di accettare le regole che gli venivano proposte, se pur doveva ed era costretto ad accettarle e ad apprenderle. Ho trovato questa situazione a Domodossola e insomma da lì è nato un po' tutto. Su cosa hai voluto puntare? Su cosa l'hai centrato? Ho ricercato nella realtà un contesto che richiamasse quell'idea di formazione, quindi in realtà il film è un documentario che vede l'incontro con una realtà e delle persone realistiche, non ci sono dialoghi scritti, è tutto basato sull'incontro che ho fatto con questa scuola e con questo protagonista. La lettura, le ricerche sono una spinta che mi hanno portato poi a indagare il contesto alberghiero. Cosa ti ha impressionato di questa realtà? Sicuramente che è rapportata a un adolescente, perché stiamo parlando di una scuola, porta un ragazzo molto giovane a dover fare i conti da subito con il proprio futuro. Quindi imparare un mestiere a 14 anni non è mai facile, soprattutto se è un mestiere fatto di regole e di galateo e di bon ton, insomma di estetica, di comportamento, cosa che molto probabilmente la maggior parte di chi studia oggi, diciamo, non deve affrontare per i 5 anni di studio. Chi fa, diciamo, l'alberghiero a un livello più alto si trova soprattutto a dover fare i conti con un aspetto psicologico non facile per quell'età. Questa scelta distributiva con Movidei, ci racconti un po'? Ci siamo incontrati, diciamo, in corso d'opera, quindi è stato un percorso nato già dal periodo produttivo e loro fondamentalmente hanno sempre distribuito i film cercando un contatto diretto con il pubblico e ragionando su un altro tipo di distribuzione. Con l'apprendistato il film verrà distribuito in maniera canonica, cercando appunto l'accordo con le sale per mantenere il film il più possibile in alcune città, nelle principali, però in parallelo verrà fatto sempre un lavoro di preacquisto di biglietti e contatto con il pubblico in maniera diretta, e quindi sarà una distribuzione un pochino diversa che poi sposa perfettamente, diciamo, il percorso che questo film può fare quasi a livello di tour in giro per l'Italia, quindi sarà una distribuzione lunga e su più binari. Con presentazioni alla tua presenza, immagino. Sì, seguirò molto spesso, diciamo, il film, sia dalle prime date, adesso la prima data doveva essere il 7 marzo a Milano, purtroppo causa emergenza sarà rimandata, e la prima quindi sarà a Roma il 9 marzo, io sarò presente, da lì, diciamo, si inizierà. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora, diciamo, si può seguire il percorso del film sulla pagina Facebook dell'apprendistato oppure sul sito moviedei.it, dove è possibile anche preacquistare, diciamo, i biglietti. Tutto è in continuo aggiornamento e in continua evoluzione, quindi sono, diciamo, i due riferimenti migliori per vedere un po' cosa succederà. L'apprendistato al cinema con Movidei da sabato 7 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Davide Maldi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, sicuramente, insomma, a risentirci. Con Emanuele Caruso per parlare del suo documentario Arriveder le stelle al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Emanuele, ben trovato. Grazie dell'invito, anzi. Ci racconti di questo progetto? Un documentario un po' particolare, girato in soli 7 giorni, con gli attori Giuseppe Cederna, che ce lo ricordiamo per Mediterraneo, sì, per il Oscar del 90, e Maya Sanza, famosa per mille film, tra cui La meglio gioventù e tanti altri, e con loro e con altre persone abbiamo attraversato a piedi una valle molto particolare in Piemonte, si chiama Val Grande, al confine con la Svizzera, che è una particolarità. È la zona wilderness più grande d'Europa, sono 152 km quadrati di sola natura, quindi non ci sono case, non ci sono strade, non c'è nulla, e per 7 giorni a piedi, lasciando le nostre comodità, i nostri cellulari a casa, abbiamo percorso questa valle facendoci una domanda: siamo come umanità, come classe sociale, come paese, come politica, siamo pronti a gestire una grande emergenza che è alle porte? E il film capita proprio a fagiolo in questi giorni, il film è stato girato ad agosto perché proprio in questi giorni si parla di emergenza e in realtà si sta, ahimè, vedendo come non siamo capaci a gestire un'emergenza, che poi è un po' la tesi del film. Il film si sofferma di più su quella che sarà una crisi ambientale, dell'ambiente, del clima, del mondo in cui viviamo, che arriverà nei prossimi anni, ma ahimè oggi per qualcosa di sicuramente importante, di sicuramente complicato, ma comunque gestibile, come questo virus che stiamo vivendo in questi giorni, abbiamo visto come la nostra società sia già andata completamente in crisi con qualcosa che comunque è meno grave della crisi ambientale che in realtà ci aspetta. Come è nata l'idea? è sempre un po' stato al centro dei miei film il ritorno a una vita un pochino diversa da quella che, ahimè, siamo abituati a vivere oggi, una vita che in qualche modo sfrutta il pianeta, sfrutta il territorio, e le nostre comodità, il nostro modo di vivere necessitano di così tante risorse che c'è un'altra metà di mondo che quelle risorse non le ha e vive nella povertà, per dare a noi la possibilità invece di vivere bene. Quindi è sempre stato un po', ho sempre un po' stato vicino a queste tematiche. Poi in realtà nell'ultimo anno e mezzo mi sono davvero reso conto che la crisi ambientale che arriverà di qui a qualche anno, a cui c'è ancora persino qualcuno che non crede che esista neanche, ci metterà davvero tutti in ginocchio. Non a caso il sottotitolo del film Arrivedere le stelle è: scegli fra il cambiamento oppure la paura, perché quando questa crisi arriverà ci sarà da aver paura. E ripeto, in questi giorni abbiamo già molta paura per quello che c'è in giro adesso, che è un qualcosa di comunque gestibile, figuriamoci per l'ambiente. Quindi l'idea era quella di cercare un po' di indagare il cuore dell'uomo e capire come mai non stiamo facendo nulla. In questi giorni di riprese, il tuo gruppo che soluzioni ha cercato di praticare? Beh, abbiamo provato a vivere, come dicevo, un po' fuori dal tempo. In Val Grande non c'è corrente elettrica, non ci sono le comunità di tutti i giorni, ripeto, il cellulare era stato lasciato a casa e si viveva un po' alla giornata. Siamo poi stati ospiti anche di un rifugio dei forestali che, insomma, in qualche modo per alcune notti ci hanno dato un tetto davvero sopra la testa, se no altrimenti stavamo in alcuni bivacchi, e abbiamo un po' provato a vedere se una vita, quella era forzatamente molto, molto diversa, ma se una vita così impossibile, e abbiamo trovato, come dicevi tu, delle soluzioni. Il film infatti è concepito come una lettera al futuro dell'umanità. Abbiamo immaginato che all'insala non ci fosse il pubblico di oggi, ma ci fosse un pubblico fra 100-200 anni, che guardandosi indietro si fa una domanda sola: come mai ci avete consegnato questo mondo? Ecco, noi andiamo a rispondere a questa domanda, cioè andiamo a capire, a rispondere come mai, pur sapendo che le cose, insomma, non andavano bene, non abbiamo fatto nulla per prevenire. E rispondendo a questa domanda cerchiamo di lanciare un segnale, cioè di dire: dal momento che sappiamo le cose ma non stiamo facendo nulla, forse è il tempo di attivarci, di cambiare radicalmente il nostro modo di vivere. In quante sale? Questa è sempre una bella domanda. Allora, il film è un piccolissimo film, è costato malapena 60.000 euro ed è stato distribuito con 10.000 euro, cioè con nulla. Contate che le grandi produzioni distribuiscono anche con 300, 400, 500.000 euro un film in Italia, quindi stiamo parlando di numeri molto bassi. In più, questo è un docufilm, sappiamo che le sale e anche il pubblico in Italia non è molto abituato ai documentari. Nonostante tutto, riusciamo nella prima settimana, che è questa qui del 5 marzo, a uscire in una quarantina di sale. Abbiamo fatto la scelta di uscire lo stesso, nonostante molte sale in Italia siano chiuse, anche per dare un po' un segnale nel nostro piccolo, perché noi siamo davvero piccolissimi di ripresa. Il grosso delle sale è concentrato in Piemonte, ma in realtà arriviamo fino a Roma in un percorso. Quindi la prima settimana dovevamo anche essere in Lombardia, ma ahimè è chiusa, quindi siamo più concentrati al nord. Dalla seconda iniziamo a scendere sulla Toscana, sul Lazio, sperando che, insomma, la situazione a livello italiano possa migliorare. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora, diciamo che tutta la programmazione è sul sito del film. Il film si chiama Arrivedere le stelle, ma il sito che abbiamo attivato è www.stellefilm.it. E poi c'è la pagina Facebook del film, che si chiama La Terra Buona, che è il nome del vecchio film, abbiamo tenuto quella perché avevamo un buon seguito, quindi su Facebook La Terra Buona e invece su web stellefilm.it. Arrivedere le stelle al cinema da giovedì 5 marzo 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Emanuele Caruso. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. E viva il lupo, grazie mille. Con Francesca Nava, ideatrice e co-regista del film Terroriste, Zera e le altre. A Roma, al Cine de Tour, domenica 8 marzo 2020, proiezione incontro con le autrici. Francesca, ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Sì, diciamo che è una storia lunga e anche molto travagliata, perché l'idea mi è venuta proprio durante le ore del tentato golpe che c'è stato in Turchia nel luglio del 2016. Diciamo che all'epoca ero impossibilitata a viaggiare perché ero all'ottavo mese di gravidanza e ho sempre avuto un legame molto forte con la Turchia, per cui, viste anche quelle immagini e le purghe che sono seguite a quel tentato golpe, ho incominciato a documentarmi anche alla ricerca di storie da poter raccontare anche con un formato più lungo rispetto a un semplice reportage giornalistico. Io appunto faccio la giornalista televisiva, quindi dal mio primo amore è sempre stato il documentario, e ho incominciato a leggere, a studiare, a informarmi, e ho visto che tra le varie persone che venivano arrestate, quindi hanno fatto vere e proprie purghe di insegnanti, magistrati, non solo appunto giornalisti, che poi sono quelli che sono finiti anche sulle prime pagine dei giornali, e sono stata immediatamente catturata dalla storia di questa artista e anche giornalista, Zera Doğan, che è stata la fondatrice di un'agenzia di stampa tutta al femminile, che si chiamava, parlo al passato perché poi è stata chiusa, Gina News, che è stata di fatto accusata di fare propaganda terroristica per un dipinto che rappresentava la distruzione di questa città nel sud della Turchia, di fatto il Kurdistan turco, Nusaybin, una fotografia che raffigurava un dipinto. Lei aveva dipinto quella che era stata una fotografia postata sui social media da un soldato turco e rappresentava la città dove lei tra l'altro era stata a lungo a documentare questa guerra, e dove non aveva potuto però fare fotografie perché c'era un coprifuoco continuo. Lei posta questa fotografia di un suo dipinto, viene arrestata, accusata di affiliazione a un'associazione terroristica, nella fattispecie il PKK, viene accusata di propaganda terroristica e viene di fatto messa in carcere. Lei poi è stata arrestata, diciamo, due volte, quindi ha fatto prima una detenzione preventiva, poi è stata rilasciata e poi è stata nuovamente arrestata. Io ovviamente, andando seguendo le sue tracce, cerco di contattarla, fisso un incontro con lei, arrivo in Turchia e praticamente il giorno prima del mio arrivo in Turchia lei viene di nuovo arrestata, e questa volta viene arrestata con una sentenza definitiva che poi l'ha tenuta in carcere quasi 3 anni. Io mi trovo quindi a, diciamo, non avere più il mio personaggio principale della mia storia, che era composta anche da altre due donne, da una scrittrice, Asli Erdoğan, che si è fatta quasi 5 mesi di carcere in isolamento, un isolamento molto duro, anche lei per aver scritto degli articoli che in qualche modo appoggiavano la causa curda, e l'altra storia è quella di un medico, Şebnem Fincanci, che è anche il presidente, la fondatrice dell'Associazione per i diritti umani e contro la tortura in Turchia, è un professore universitario ed è un medico legale che ha di fatto anche autopsie e determina se c'è stata o meno tortura, e lei è stata tra l'altro una delle coautrici del cosiddetto vademecum utilizzato dalle Nazioni Unite per stabilire nel mondo che cos'è tortura. Quindi parliamo di 3 donne con un profilo altissimo, 3 donne che lavorano in 3 settori anche molto cruciali nella società turca, tutte e 3 accusate di propaganda terroristica. Di fatto la facciata per le altre 2, quindi per il medico Şebnem Fincanci e per la scrittrice Asli Erdoğan, non è mai stato ovviamente il fatto di fare propaganda e di appoggiare la causa curda, ma di aver in qualche modo prestato il loro nome, la loro faccia, a sostegno di una campagna contro la chiusura di un giornale filocurdo che era Özgür Gündem. Entrambe erano state, diciamo, si erano prestate a fare il direttore per una settimana a rotazione proprio per impedire la chiusura di questo quotidiano. Io loro due sono riuscita ad incontrarle in Turchia, è stato, diciamo, anche molto difficile girare e fare queste riprese perché nell'anno successivo poi al tentato golpe c'era un clima di caccia alle streghe e c'era questo stato di emergenza che impediva anche, dava una serie di limitazioni, quindi limitazioni anche alle manifestazioni, limitazioni in diversi campi anche dell'espressione, poi anche della libertà di stampa, per cui noi siamo stati, io con anche il filmmaker che ha girato questo documentario che si chiama Fabio Colasso, siamo stati avvicinati più volte da persone che sapevano già diverse informazioni su di noi, non ci è stato dato il visto per entrare in Turchia, quindi noi siamo entrati come semplici turisti e non ci è stato possibile girare agilmente in Turchia, per cui queste interviste, quindi sia la scrittrice che al medico, le abbiamo dovute girare all'interno quindi di edifici chiusi, avendo anche la consapevolezza che in qualche modo le autorità sapevano di quello che stavamo facendo ed eravamo un po' nel mirino. Quindi siamo rientrati con queste due interviste senza avere il nostro personaggio principale, che era Zeradoğan. Successivamente siamo riusciti a metterci in contatto con col suo avvocato e attraverso anche appunto il coinvolgimento della società di produzione che si chiama Creative Nomads, che è composta da due donne, diciamo, questo è tutto un lavoro al femminile, a parte il contributo delle riprese di Fabio Colazio, siamo tutte donne che raccontano donne, un po' anche questa la nostra cifra, quindi Vicky Chinaglia e Marella Bombini, le due socie di questa società di produzione, insieme anche alla sceneggiatrice, che è anche una delle co-regista, Marika Casalinuovo, siamo riuscite in qualche modo a pensare a un confezionamento di questo documentario attraverso quello che noi abbiamo un po' definito anche il nostro colpo di scena. A un certo punto, mettendoci in contatto con l'avvocato di Zeradoğan, che era in carcere ed era in isolamento, una pittrice e una giornalista a cui è stato tolto anche qualunque tipo di materiale per dipingere, abbiamo saputo che si stava arrangiando e stava comunque continuando a dipingere e a denunciare quello che aveva visto nei suoi anni di attività nel Kurdistan attraverso materiali di recupero. Ecco, l'avvocato è stato il nostro un po' il personaggio che ci ha permesso di metterci in contatto con lei. Abbiamo recapitato a Zera in carcere, siamo riusciti a far entrare clandestinamente una lettera con delle domande a cui lei ha risposto con questa lettera scritta a mano e appunto consegnata in maniera clandestina al suo avvocato, una lettera di 21 pagine che è diventato poi il filo rosso del nostro documentario, per cui quello che diciamo non siamo riusciti a riprendere con la telecamera, perché quando siamo arrivati lei ormai era già in carcere, abbiamo deciso di raffigurarlo attraverso un'animazione grafica, quindi Zeradoğan è diventata un fumetto, è stata disegnata, la sua lettera è stata sceneggiata e ha legato le storie anche delle altre due donne. Infatti tutto quello che lei ci racconta in questa lettera non è soltanto la carcerazione e quello che lei sta vivendo in carcere anche con le sue compagne di cella durante appunto l'ora d'aria, ma è anche la storia di lei, esule e profuga curda in un paese, la Turchia, che ovviamente vede il popolo curdo come un grande nemico, molto più dell'ISIS, ed è questo anche che poi documentiamo anche nel documentario. E quindi lei ci racconta la sua storia da donna curda che vive in Turchia, da giornalista, da pittrice. Lei credo tra l'altro sia al momento l'unica dissidente politica che sia stata incarcerata per un dipinto. Ecco, questa lettera dirompente è stata sceneggiata in questo modo ed è stata ricostruita attraverso questa animazione grafica, tra l'altro nella versione italiana a prestare la voce a Zeradoğan è l'attrice Kasia Smutniak, che a nostro avviso ha rappresentato ed è riuscita ad interpretare molto bene anche il personaggio di Zeradoğan, anche attraverso questa inflessione leggermente diciamo straniera. E quindi siamo riusciti in qualche modo a mettere insieme quello che sembrava impossibile, perché date le difficoltà nel girare le interviste, nel recuperare il materiale, le storie e nel metterci poi in contatto con Zeradoğan, di fatto non avevamo il materiale sufficiente per poter realizzare un documentario. Quindi insomma questa partecipazione e anche l'entrata in gioco di questa società di produzione Creative Nomad è stata sicuramente determinante, come è stata determinante anche la scrittura della sceneggiatrice di Marika Casalinuovo e le animazioni grafiche di Vicky Chinaglia, che sono riusciti in qualche modo anche nel montaggio di Serena Del Prete. Mi piace citarle tutte perché sono insomma tutti pezzi importanti e ruoli importanti di questo documentario, che è sicuramente un'opera anche corale, che è stata resa possibile grazie anche al recupero di materiali inediti, molto anche scioccanti da vedere, che sono queste immagini di guerra e di morte nella città in particolare di Cizre, maggioranza curda nella Turchia del Sud, dove il nostro medico, quindi una delle nostre protagoniste, Şebnem Fincancı, arriva esattamente il giorno dopo la fine del coprifuoco, scende in uno di questi basement dove erano stati bruciati, l'ipotesi era che fossero stati bruciati vivi dei civili e di fatto fa dei rilievi autoptici che vengono filmati da questo filmmaker che ci ha ceduto queste immagini e non ha voluto essere nominato nei credits, appunto per paura anche di ripercussioni, e quindi giustamente non lo vogliamo nominare per questo motivo. Sicuramente un filmmaker molto coraggioso che ha documentato quella che è anche un po' la parte più forte e angosciante del documentario, che è il vero motivo poi per il quale per esempio il medico, quindi Shebnem, è stata accusata di propaganda terroristica, perché ha scritto questo report, che è il famoso report su Cisre, dove di fatto documenta che le persone ammazzate e probabilmente bruciate vive in questi basement non solo non erano ribelli del PKK, erano civili e purtroppo c'erano anche dei bambini. Infatti in queste scene raccapriccianti si vedono proprio queste donne, queste madri che cercano i propri figli fatti a pezzi con i cadaveri ancora fumanti, e la dottoressa che scende accompagnata da una serie di altri osservatori anche internazionali per cercare di fare dei rilievi autoptici. Purtroppo su questa scena del delitto cosiddetta non è mai stata aperta un'investigazione internazionale, perché il giorno dopo è stato levato tutto. Ecco, la punizione che il governo e lo Stato turco ha voluto dare a donne come Shebnem è stata quella appunto del carcere, dell'accusa di propaganda terroristica. Tra l'altro Shebnem Sincanci ha una serie di altri processi ancora aperti, quindi non solo per propaganda terroristica, secondo lei, secondo noi, dovuta a questo rapporto su Cisre, anche se poi di fatto la ragione che viene data dall'accusa è quella di aver dato il proprio sostegno contro la chiusura di un quotidiano curdo che si chiama Gurgundem, ma Shebnem Sincanci ha altri processi aperti per aver firmato una petizione insieme ad altri insegnanti, ad altri accademici, proprio per mettere fine alla guerra contro i curdi, per cui ha avuto una condanna a 2 anni e 6 mesi, che credo che sia la condanna più alta mai data per aver, diciamo, firmato una petizione, e più ha un altro processo aperto per aver insultato il presidente Erdogan con un tweet, tra l'altro. Questa insomma è la situazione oggi ed è quello che noi abbiamo cercato di raccontare in questo documentario, che ovviamente è esemplificativo di una situazione che continua di repressione, che continua ad esserci in Turchia, e che non riguarda soltanto appunto la libertà di stampa, ma riguarda diversi settori della società turca che vive in uno stato anche perenne da diversi anni di paranoia. Quindi c'è una sensazione, anche quando si va in Turchia, di non essere mai liberi di parlare, di circolare, e la si percepisce soprattutto dalle persone che vivono in Turchia, perché persone appunto come la sottoscritta ci entra e poi ci esce, anche se dopo il documentario non ho più provato a volare in Turchia e credo di non essere, diciamo, benvenuta in Turchia, e quindi non voglio fare questo esperimento, ma immagino che potrei avere dei problemi a tornare in Turchia, ma si percepisce appunto parlando con le persone, e l'abbiamo toccato con mano parlando e mettendoci in contatto appunto con giornalisti, registi, filmmaker che hanno documentato queste situazioni nel Kurdistan e che tutt'oggi, appunto, continuando a vivere comunque in Turchia, hanno preferito non apparire e non rendere noto il proprio nome. Quindi il documentario in qualche modo ha voluto anche gettare una luce, e il fatto anche di volerlo fare al femminile è stata anche un po' la voglia anche di voler far vedere anche la capacità di resistenza e di lotta proprio del mondo femminile in Turchia, dove sappiamo è in atto anche una campagna molto pesante di islamizzazione e di repressione soprattutto della donna, del corpo della donna. Quindi è stato importante, per quanto mi riguarda, aver scelto queste storie anche molto esemplificative, eloquenti, di 3 donne a mio avviso eccezionali. Una di loro, tra l'altro, Asli Erdogan, al momento è autoesiliata in Germania, ha avuto tra l'altro un'importante assoluzione qualche giorno fa. Lei era stata anche accusata di distruggere l'unità dello Stato, oltre che di fare propaganda terroristica. Ha avuto un'importante assoluzione che comunque non toglie quello che lei ha vissuto in questi anni, tant'è che ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla propria salute, ha dovuto subire 2 interventi per paralisi all'intestino che i medici hanno dichiarato, insomma, che è stato causato proprio da un trauma, diciamo, insomma, è l'esito di un trauma forte subito per la repressione e tutto quello che ha vissuto dentro e fuori dalla Turchia, anche perché è sempre stata ed è tuttora oggetto di una violenza anche sul web nei suoi confronti. racconti ogni volta che rilascia un'intervista o scrive un articolo, per cui insomma anche in esilio non riesce a, non credo che riuscirà purtroppo a trovare pace. Per quanto riguarda Zeradoan invece, ha concluso la sua carcerazione il 24 febbraio del 2019, dopo poche settimane è andata a vivere a Londra, anche perché non gli è mai stato possibile poter fare una mostra o poter esercitare in Turchia, cosa che invece sta facendo in tutto il mondo. Infatti le sue opere, sia quelle che aveva fatto fuori dal carcere, sia quelle che ha prodotto dentro al carcere, che sono tantissime, stanno circolando e sono esposte in diversi paesi del mondo, anche negli Stati Uniti, anche a New York, anche se mi risulta che non abbia potuto viaggiare a New York proprio per il ban che ha messo Trump per ragioni di terrorismo, che è un po' un assurdo, però avendo lei un'accusa per terrorismo e avendo scontato in carcere appunto con un'accusa di terrorismo, non è la benvenuta negli Stati Uniti. Cioè, credo sia appena conclusa una bellissima mostra con le diverse opere sue prodotte in carcere al Museo Santa Giulia di Brescia, e comunque ce ne sono tantissime in tutta Europa, quindi anche molto attiva, quindi diciamo che da questa esperienza è riuscita anche a trarre il vantaggio di aver fatto conoscere al mondo non solo la sua storia, ma anche la storia un po' di tutto il popolo curdo, di cui lei in questo momento si fa ovviamente portavoce. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sul documentario? Sì, purtroppo il coronavirus ha colpito anche la distribuzione e le proiezioni del nostro documentario, e avevamo una serie di date già programmate in diverse città italiane, quindi da Milano, Bologna, Torino, Brescia, quindi al momento è sicuramente confermata la proiezione dell'8 marzo a Roma. E per qualunque altro aggiornamento vi rimando alla pagina Facebook di Creative Nomads Production, dove potrete avere anche tutti i riferimenti e gli aggiornamenti. Stiamo tra l'altro organizzando anche una proiezione istituzionale insieme a Zeradoan in Parlamento, ovviamente anche quella è stata rimandata ed è in sospeso, quindi speriamo di riuscire a farla entro giugno e speriamo di avere con noi anche Zeradoan. Per il momento questo, poi c'erano in ballo una serie anche di proiezioni, di festival, però appunto purtroppo è tutto congelato, quindi insomma invito chiunque fosse interessato a tenersi informato andando sulla pagina Facebook della produzione di Creative Nomads. Terroriste, Zera e le altre, al Cine de Tour a Roma, proiezione incontro con l'autrice, domenica 8 marzo 2020, un saluto e un ringraziamento a Francesca Nava, ideatrice e coregista del documentario. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie, ciao. Con Giancarlo Soldi per parlare del suo documentario Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, ma anche della rassegna di 4 suoi titoli in programmazione da martedì 3 marzo e per 4 martedì di seguito a Roma, al Cinema Lux. Giancarlo, ben trovato. Ciao, grazie. Io ci sarò, tutte e 4 le proiezioni a Lux di Roma. Partiamo dal primo titolo, che è l'ultimo uscito, Cercando Valentina. Come lo presenteresti? Beh, lo presento come una storia d'amore. Una storia d'amore proprio fra Rembrandt e Valentina, ma soprattutto una storia d'amore fra Guido Crepax e Milano. Perché la Milano del 1965 è qualcosa di straordinario in quel momento. Milano in quegli anni diventa veramente una metropoli in cui si riuniscono tutte le, come dire, le stelle, le linee della modernità che sono in giro per il mondo. È veramente una cosa unica. E lui dalla sua cameretta, chino sulla sua scrivania, riesce a cogliere lo spirito del tempo. E questo lo aiuta a arrivare veramente agli anni 70 in maniera meravigliosa. E sai, è molto importante capire che cosa stai facendo, perché lo stai facendo e come. E lui l'ha capito, insomma. Questo è Valentina. Come era partito tutto? Beh, perché facendo gli altri documentari sul fumetto, che io amo molto, a un certo punto trovo che si sarebbe potuto fare Valentina anche, però il problema è che era molto difficile, molto complicato, anche perché io raccontando i fumetti racconto il mondo, tutto il mondo che conosco, e quello era la cosa anche più adulta, più politicamente forte rispetto agli altri che erano un po' più avventura, insomma. Tex era questo, per esempio, no? Anche Diabolik era molto più avventura, insomma. Per cui fare Valentina voleva dire, come dire, mettersi un po' più a nudo, cercare, perché tutti noi siamo anche diventati così. Da dove arrivavano tutte quelle informazioni su cui siamo cresciuti? Perché voglio dire, i fumetti di questo anche parlavano. Parlavano di cose che in questo momento noi amiamo e che sono tutte dentro di noi, ma che all'inizio sono arrivate all'improvviso. I nostri genitori non ne facevano parte di questi pensieri. C'è la politica, la musica, la poesia, il fumetto, il cinema, erano un'altra cosa prima di quegli anni che sono diventati così importanti per tutti, direi. E sai, decidere di farlo è stata veramente una scommessa. A questo punto presentiamo anche gli altri tre lavori presenti nella rassegna. Certo, che sono appunto Come Tex Nessuno Mai, che è la storia praticamente di Sergio Bonelli, che mi ha molto aiutato, devo dire, sempre, tanto che andavo a trovarlo anche la domenica pomeriggio quando passavo da Milano per lavoro, per piacere, insomma, e ho cominciato negli anni a filmarlo, perché eravamo sempre spesso io e lui sempre di più raccontava a me delle cose molto personali. Per l'ultima intervista che lui ha fatto, praticamente un'intervista che gli ho fatto a Napoli, per cui alla fine mi sono ritrovato dopo tanti anni una mole di materiale enorme sul pensiero di un imprenditore visionario e lungimirante, perché anche lui ha contribuito molto a costruire parti della nostra coscienza da questo punto di vista. E poi c'è Diabolik Sono Io, che invece racconta le Giussani, cioè che come hanno fatto due signore nel 1962 a elaborare un progetto in cui un cattivo, malvagio, criminale diventa un protagonista assoluto, ancora oggi amato. Non era una cosa facile, però per fortuna io avevo avvicinato anche le Giussani, perché andavo a cena da loro ogni tanto. Se non c'avevo una lira, la cena la facevo con Bonelli, una la facevo con le Giussani, una da Sclavi, perché ero veramente un indipendente, un filmmaker indipendente che faceva dei corti, a volte un po' più lunghi, ero riuscito ad andare a Berlino e questo mi dava un po' di notorietà, voglio dire, a Milano. E per cui raccontare Diabolik, ho cercato di entrare nella testa di Angela Giussani. Anche lì, cerco sempre di entrare nella testa della persona che ha creato il fumetto. Non a caso, nessuno siamo perfetti, è l'esempio clamoroso da questo punto di vista, perché io con Tiziano Sclavi ho lavorato molto, da anni insospettabili, per cui a un certo punto, quando decido di filmarlo e di raccontarlo, lui si era già ritirato da un bel po' di tempo ed era difficile anche per me, che ero un suo amico, parlargli e avere risposte. È stato veramente complesso, è stata una seduta psicanalitica unica, diciamo, però è servito anche per spiegare agli altri perché un personaggio di questo tipo è riuscito a parlare a ragazzi e ragazze. Cioè, le donne hanno sdoganato Dylan Dog, sai, non è una cosa da poco. Il fumetto stava quasi morendo da questo punto di vista, invece il pubblico femminile l'ha rivitalizzato. E Nessuno Siamo Perfetti è il film su Sclavi, che è praticamente, io credo, una delle migliori sceneggiature di Dylan Dog che lui non ha scritto. Ne sono profondamente convinto, anche perché, come dire, è suo il parlato, è lui che mi ha dato alla fine di tutto il lavoro ho capito come prenderlo e costruire il documentario. Ed è, lui è così, lui è come quelle belle sceneggiature che faceva soprattutto nei primi 100 numeri di Dylan, no? Ecco, questo è. Allora riassumiamo anche questa tua grande passione per il fumetto che hai portato in versione filmata. Sì, l'ho fatto perché spesso ho lavorato con personaggi dei fumetti, a volte c'era una sceneggiatura, a volte ho fatto una serie addirittura dove ho incluso Alfredo Castelli, che era per Italia 1, si chiamava Alex, e che veniva messa dopo X X-Files, cioè, ho sempre avuto quest'occhio. Quando mi è stato chiesto da Minoli per La storia di Siamo Noi, l'idea di raccontare il Novecento mi è venuta in mente di chiedere ai lettori eccellenti, cioè gli intellettuali alti, diciamo, importanti, che cosa pensavano del fumetto. E raccontando quello che loro dicevano, mettendole in fila, è detto un affresco molto fresco, vorrei dire, insomma, da cui non si era molto pensato. Per cui, insomma, io ci convivo volentieri con questa grande passione. Ci lasci tutti i riferimenti web rispetto alla rassegna e anche al tuo lavoro più in generale? Certo, per chi vuole saperne di più basta andare su Facebook cercando Valentina. Bisogna cercare e ne escono di ogni tipo, insomma, ci sono soprattutto su Facebook anche tutte le date, perché la cosa bella, perché per me è una missione, veramente sono un militante in questo, l'altra sera era Scampia Valentina, domani sono Spoleto, per cui comunque una cosa richiesta da un pubblico trasversale che trova, come dire, in questi film con che si parla di fumetto, poi viene disvelato un altro mondo. Io sono riuscito a coniugare, voglio dire, con Valentina un passaggio a Bado, scontri dell'autonomia in Via Larga. Trovo delle analogie che sono molto personali, ma sono anche cose che io ho vissuto. Per cui, insomma, cerco di raccontarle in questo modo, in maniera un po' visionaria e filmica, ma lo faccio. E questo stupisce il pubblico. Questo mi fa contento, insomma. E soprattutto alla fine mi dicono, quasi quasi vado a comprarmi un album, un libro, e mi rileggo questo personaggio. E allora sono contento, ecco. Ricordiamo la rassegna, 4 titoli di Giancarlo Soldi, Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, Come Tex nessuno mai, Diabolic sono io, nessuno... Siamo perfetti a Roma, Cinema Lux dal 3 marzo 2020 e per 4 martedì consecutivi. Un saluto e un ringraziamento al regista Giancarlo Soldi. Un abbraccio, in bocca grazie. Al lupo, a risentirci presto. Ciao e grazie, vi aspetto. Ciao. Con Simone Amendola per parlare del suo documentario Nessun nome nei titoli di coda, al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Simone, ben trovato. Ciao, ben trovato a te. Ci racconti di questo lavoro? È un lungometraggio documentario e racconta, diciamo, si immerge nella vita di questo capogruppo comparse, una figura che, diciamo, che in inglese ha un po' più smalto quando dici crowd marshal, e in italiano invece è abbastanza più capogruppo, capo branco, quindi un po' più raro. E è l'ultimo praticamente di una famiglia che ha fatto questo lavoro dal dopoguerra, gli Spoletini. Chiunque, diciamo, ha tentato di avvicinarsi, di fare qualche giornata come comparsa, l'ha incrociati, perché hanno fatto tutto il cinema praticamente, tutti i grandi film del cinema italiano sono nati più o meno con il neorealismo, però il momento forte loro è stato negli anni 60-70. Praticamente incrocio questo Antonio Spoletini, che ha 82 anni, io l'ho incontrato nel momento in cui ho sentito un uomo che voleva lasciare qualcosa, appunto, diciamo, questa piccola grande metafora, no, del rapporto tra comparsi e protagonisti. Hai fatto, che hai fatto centinaia di film, ma non lascerai quasi nulla, perché appunto nei titoli di coda non ci sei e non ci sono, diciamo, tutte le comparse. E quindi ho incontrato quest'uomo che ho sentito che voleva esistere, che voleva lasciare qualcosa, e ho raccontato la storia di un uomo che cerca qualcosa da lasciare ai nipoti. Sì, una testimonianza, appunto, un nome nei titoli di coda. Nell'incontro che cosa ti ha suscitato questo interfacciarti con questa persona? Tanti aspetti, da una parte di Roma, ecco, proprio una persona, un romano doc, Trasteverino, di un altro momento proprio della storia, nato e cresciuto in un altro momento della storia, molto appassionato del suo lavoro e soprattutto la cosa che mi ha colpito è questo dare del tu, anche in maniera molto ostentata, a tutti i grandi registi del cinema italiano, continuare a dire no perché quel giorno con Federico, quel giorno con Pierpaolo, e no perché Luchino, e no perché Pietro. Questa cosa qua, nel senso, l'ho trovata molto poetica, molto tenera, non tanto appunto per la verità quanto per l'ostentazione. Questa cosa, diciamo, mi ha colpito molto. E dall'altra parte mi ha fatto anche sentire che forse prima il collettivo cinema era davvero un collettivo, nel senso che appunto anche l'ultimo dei reparti comunque si sentiva o veniva fatto sentire parte della squadra. Quindi io immagino appunto che oggi in un grande film, ma anche per stare in Italia appunto, non so, la serie di Sorrentino del New Pop, io non credo che ci sia tempo e modo per cui le comparse, i figuranti abbiano un rapporto con il regista. Credo che siano appunto abbastanza gestiti, mediati dall'aiuto, dalla produzione, mentre invece lì appunto quel rapporto c'era, forse gli intellettuali avevano anche bisogno di una mediazione molto forte con queste persone del popolo e quindi cercavano il rapporto con loro. E quindi è stato anche comunque un'occasione di un viaggio proprio nelle trasformazioni del cinema in questi decenni? Beh sì, ripeto, molto più sulla tenerezza che sulla nostalgia, nel senso io non sono un nostalgico del cinema di una volta, mi piacciono molto alcuni autori, alcuni film, però ecco, non ho nessuno spirito nostalgico, quindi diciamo, lui magari il protagonista del film ce l'ha per tanti motivi, anche perché appunto gli ricorda diciamo la sua vita al cinema, ogni film, ogni esperienza è stata la sua vita, quindi dal mio punto di vista non nostalgico, però sicuramente con una fascinazione, ecco, per dei piccoli aneddoti, delle cose che poi più o meno appunto, siccome il film non è un film di interviste ma è narrativo, quindi le cose accadono e si sommano, si moltiplicano nella narrazione, quindi poi tante cose diciamo sono rimaste più come bagaglio mio nel rapporto con il protagonista che non proprio direttamente nel film, però tanti aneddoti veramente affascinanti, seducenti, non so, i biglioni di volontà a favore delle comparse perché i cestini non erano buoni, o tutta una serie di cose che un po' appunto sicuramente appartengono a un momento molto forte anche ideologicamente del nostro paese e che quindi oggi non trovi, ecco. Che tipo di uscita sarà? Il film viene da Festa del Cinema di Roma, poi si è fatto un po' di festival, ha preso un premio del pubblico a un festival in Olanda, una nomination ai Fabbrici di Cinema, quindi ha girato diciamo un pochino e adesso iniziando da Roma con il Cinema Aquila faremo 5, 6 e 7 e poi vediamo, appunto, loro sono disponibili a tenerlo il film, a replicarlo, e poi praticamente distribuiremo il film con Movie Day, che è una piattaforma davvero interessante per una distribuzione nazionale in rapporto con tantissimi cinema su tutto il territorio, e loro praticamente organizzano per il film delle proiezioni mirate, organizzate appunto con delle prevendite che sono da tutela sia per chi presenta il film sia per i cinema. E ci abbiamo già appunto un po' di conferme di città, la maggior parte più centro-nord al momento. Aspettiamo pure, ecco, di capire questa situazione coronavirus come evolve o come involve. Però ecco, l'idea è che da adesso più o meno per un paio di mesi o anche più il film, ecco, possa stare in tour, possa girare, dove possibile, stando anche magari più di un giorno, però cercando almeno di fare proiezioni anche singole, di far girare il film su diverse piazze. Nessun nome nei titoli di coda al cinema da giovedì 5 marzo 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista Simone Amendola. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e credo in lupo. che serve. Poi diciamo che ci abbiamo pure un po' di coraggio, perché la gente non sta andando in sala, ecco, quindi lo facciamo anche, cioè l'avevamo già deciso, appunto, vedendo che la situazione a Roma non è ancora compromessa, almeno mediaticamente, quindi abbiamo detto vabbè, facciamolo uguale, loro del Cinema Avila appunto ci tengono, dice no, no, andiamo avanti, quindi andiamo avanti. Grazie. Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per sapere delle novità del portale di questo mese. Paco, ben trovato. Ben trovati, buongiorno a tutte e tutti. Questo mese abbiamo, come sempre, diverse novità sia sul piano editoriale che sul piano delle proposte cinematografiche. Anzitutto vi segnaliamo, come appunto stiamo facendo in queste settimane, che nonostante una serie di difficoltà che conosciamo tutti di questi giorni, la tournée di The Milky Way sta iniziando a muovere i suoi primi passi dopo i sold out di Brescia, Bologna e di Torino. Finalmente inizieremo la tournée, che ha avuto ovviamente dei ritardi causati dalle emergenze di cui tutti siamo a conoscenza di queste settimane, e inizierà a toccare diverse città, partendo da questo venerdì a Firenze, per poi toccare tante altre città del centro e del nord Italia, e facendo poi anche una tournée sulla Sicilia e sulla Calabria dal mese di aprile. Potete trovare ovviamente tutte le informazioni sul sito del film, themilkywaydoc.com. Siamo molto contenti ovviamente, anche e soprattutto visti gli ultimi avvenimenti delle ultime 36 ore che stanno succedendo al confine con la Grecia, riteniamo essere un tema drammaticamente odierno e importante, quello dei confini e di ciò che i confini vanno a generare soprattutto, anche perché penso siamo tutti d'accordo sul fatto che ciò che sta avvenendo in queste ore a Lesbo e più in generale sui confini della Grecia sancisce definitivamente il dramma della fase in cui siamo, e in cui siamo purtroppo troppe volte costantemente abituati ad accettare l'inaccettabile. Basti pensare a tutto il tema anche di ciò che è successo nell'ultimo anno, in particolar modo sul Mar Mediterraneo, ma come si vede anche da questi giorni, anche i confini via terra hanno un loro drammatico ordine delle cose e portano delle conseguenze se le cose vengono applicate in un certo modo. Per cui questo è un film molto urgente che chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere, anche se è ambientato su un altro confine, perché sul confine Italia-Francia, ma tocca esattamente le stesse dinamiche di cui stiamo parlando in questi giorni tutti quanti. Parallelamente a questo, sempre sul fronte delle produzioni di SMK in particolare, vi segnaliamo che continua la campagna di Sarura su Produzioni dal Basso, il nuovo documentario in produzione appunto che abbiamo realizzato in Palestina con i figli e le figlie delle persone che coinvolgemmo 10 anni fa nel nostro Tomorrow Stand, il nostro primo vero documentario appunto che giriamo da 2 anni, e oggi invece siamo tornati in Palestina per raccontare quello che è la vita e la resistenza quotidiana dei figli di queste persone che oggi sono diventati studenti universitari, che sono tutti ragazzi di 20 anni, all'interno di un collettivo che si chiama Youth of Sumud e che sta facendo molte iniziative con gli strumenti di una persona di 20 anni, che sono chiaramente nuovi, diversi, eccetera, quindi con anche l'utilizzo dei social network in un certo modo e quant'altro. Il film uscirà prossimamente, è ancora in piena produzione, ma appunto su Produzioni dal Basso potete trovare la campagna ancora attiva per diventare coproduttori del film. Invece, venendo alla galassia delle proposte del mese, fermo restando che abbiamo delle prossime uscite molto importanti sulle quali dobbiamo ancora tenere le bocche un po' cucite, ma che vi racconteremo molto volentieri nel prossimo collegamento, e vi segnaliamo in particolar modo tra le varie proposte 2 titoli che sono entrambi nella sezione editorie, perché come penso ormai sappiate DDB si occupa anche, di sostegno alle editorie indipendenti, non solo al cinema indipendente. Il primo è quella che potremmo considerare a tutti gli effetti una nostra Bibbia, o comunque un libro fonte di enorme ispirazione per noi, che è un piccolo libretto di centinaia di pagine fatto da Silvano Agosti, che si chiama Come fare un film, ed è un libro piccolo ma molto molto importante, ed è stato per noi veramente particolare scoprirlo qualche anno fa, quando stavamo iniziando a costruire una forte collaborazione con Maestro Agosti, perché è un libro che racconta esattamente quelle prospettive, quegli immaginari che hanno portato anche noi qualche anno fa a decidere qual era la nostra strada all'interno del cinema indipendente e al perché bisognava rivendicare ampiamente questa scelta con una serie di strumenti. Questo è un piccolo libro che vi consigliamo di prendere su OpenDDB, anche in formato digitale, tra l'altro lo abbiamo, e che all'interno del quale Silvano racconta esattamente come ha potuto realizzare 12 lungometraggi nell'arco della sua carriera, più un'altra svariata miriade di progetti più brevi, di cortometraggi, di mediometraggi, proprio utilizzando questo approccio da indipendente e senza legarsi a nessun apparato mainstream o a nessuna produzione che si possa collegare alla cosiddetta industria cinematografica. Quindi per noi questo è un libro quasi fondativo, diciamo. L'ultima proposta che vi segnaliamo invece, sempre sulle editorie, è Malabrocca di Valerio Monteventi. Valerio Monteventi è uno scrittore e giornalista bolognese che conosciamo molto bene, perché appunto anche OpenDDB fa base a Bologna, e del quale abbiamo avuto già l'onore in passato di ospitare alcuni suoi titoli. Malabrocca è l'ultimo dei suoi libri usciti, parte dalla storia di appunto Luigi Malabrocca, che era questo ciclista degli anni 40, diventato famoso per essere colui che, stabilendo praticamente un record, è stato per diversi anni maglia nera alle tappe del Giro d'Italia. Ovviamente dietro c'è tutta una storia che ha reso anche mitico il personaggio, in quanto ha diventato questo personaggio. Valerio parte dalla sua vicenda per fare tutta una contronarrazione su quello che possono essere considerati gli ultimi, in qualche maniera, quindi lo usa quasi come metafora di vita, e arriva anche a delle conclusioni che riteniamo molto molto importanti e molto vicine anche al nostro modo di operare, proprio perché non è questione di sentirsi primi o ultimi, ma è questione di creare delle alternative concrete a un sistema che invece tende a gerarchizzarci e a creare una distinzione tra chi ha tutto e chi ha niente. Quindi è un libro che vi consigliamo caldamente di richiedere sulla nostra piattaforma, che come sempre e come sempre sarà, potete trovare su www.opendb.it. Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per le novità di questo mese. Con Mario Sesti, uno dei curatori della 7ª edizione di Cinema al Maxi, dal 12 febbraio al 29 marzo 2020. Mario, ben trovato. Grazie, benvenuti, cioè, grazie a voi. Raccontiamo un po' Cinema al Maxi, siamo alla 7ª edizione, come era nato tutto? Beh, tutti i grandi musei d'arte contemporanea, a partire dall'esempio del forse più celebre, più prestigioso di tutti, quello di New York, il MoMA, hanno da sempre, ormai da più di un secolo, inserito il cinema tra le arti contemporanee. Mi sembra difficile che qualcuno possa sostenere il contrario oggi. 7-8 anni fa il Maxi chiese a Fondazione Cinema per Roma, che è la fondazione che fa che cura la festa del cinema, di fare delle proposte per dei programmi di cinema, e io sono stato incaricato di articolare questo programma, e da lì, come sai, perché tu sei stato uno di quelli che l'ha seguito più da vicino, è nata tutta una serie di proposte che poi è finita con questo festival extra doc, che è tutta la sua terza edizione, il Festival Documentario Italiano, che è diventata un po' la spina dorsale, diciamo, in tutto quanto il programma. Si tratta però di un programma molto composito, nel senso che la versatilità, la ricchezza e anche un po' l'innovazione sono un po' le sue caratteristiche. Del resto, un museo che si chiama Museo del XXI secolo della creatività contemporanea potrebbe essere diverso. Per esempio, quest'anno con Andrea Minus, che è professore della Sapienza, abbiamo realizzato, progettato un nuovo festival che sta all'interno del suo programma, che è il Festival dei Video Essay, che come credo tu sappia sono questo genere che si è diffuso molto online, che è una specie di critica cinematografica per immagini e che è uno dei generi forse più originali, più interessanti, anche dal punto di vista proprio estetico, linguistico, più plastici, più stimolanti. Ecco. Tra l'altro abbiamo aperto un bando qualche settimana fa, e quindi chiunque si senta all'altezza di scrivere